Innanzitutto io mi sono dimesso immediatamente da vicepresidente del consiglio regionale. L'ho fatto, legge di 48 ore, credo l'unico che l'ha fatto finora, in tempi così rapidi. Mi sono dimesso da tutte le cariche del partito, sia a livello nazionale che a livello locale. Sono uscito dal gruppo del PD proprio per isolare la mia posizione da quella delle istituzioni Sì. innanzitutto e del partito. Penso di poter avere, prima di dover fare una scelta che sicuramente non escludo, di lasciare il Consiglio regionale dopo le decisioni del GUP, ma almeno di poter dire la mia di fronte ad un giudice. Il PD ha la stessa posizione mia. Se il GUP confermerà, cioè quindi il giudice dell'udienza preliminare confermerà Il rinvio a la richiesta giudizio. di rinvio giudizio, io in quel caso noi chiediamo a Penati di fare un E passo lei lo indietro. farà in questo caso? Io credo che se ci saranno le condizioni, sarà questo impianto accusatorio, non resterò un minuto di più, cioè non ha senso.